Libia, tacciono le armi, parla l'economia. Parigi, Charlie Hebdo, oggi al via il processo, ma c'è un nuovo allarme terrorismo. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Il nostro ruolo storico, invece, è sempre stato quello di mediare, far parlare le parti. I believe some of the agreement between our two countries need to be revisited, considering the pace of change in Libya. Charlie Hebdo, à la veille du procès des complices du massacre de janvier 2015, Charlie va reproduire, à sa une, les caricatures de Mahomet. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, in una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono, come ogni giorno, Antonio Talia, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti sui temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. C'è anche Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24 è la pagina, lì troverete anche la diretta video. E poi Twitter, i due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. I temi, dicevamo, da un lato il bilancio della visita di ieri del ministro Di Maio, del sottosegretario Maio Di Stefano a Tripoli, e poi irrompe la breaking news, come dicono gli addetti ai lavori anglosassoni. Nella tarda serata di ieri, fermati 4 motopescherecci italiani, 2 riescono a fuggire, altri 2 finiscono con 18 marinai nelle mani delle milizie di Bengasi, l'altra Libia, se mi passate il termine. Il sindaco di Mazara del Vallo, l'avete sentito dai nostri GR, tenta di stabilire un filo rosso tra la presenza della delegazione della Farnesina nell'altra Libia, quella di Tripoli, e questo fatto che sta mettendo in ansia, come immaginate, le famiglie dei 18 marinai. Tra pochissimo cercheremo di darvi conto anche di questi eventi, e poi abbiamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, che purtroppo ci fa tornare indietro di qualche anno con quei tragici eventi di Charlie Hebdo, con quello scontro tra il diritto alla manifestazione di pensiero e un Islam distorto e benefico che invece assolutamente non voleva quelle vignette che puntualmente Charlie Hebdo ha ripubblicato. Questa è la nostra puntata di Nessun Luogo Lontano, e i più attenti avranno anche colto, avranno drizzato le orecchie se l'anno scorso vi avevamo accompagnato nella sigla di testa, nei titoli di coda, con la voce di John Bercow. Lo speaker della Camera di Londra, era l'anno della Brexit, era l'anno di Berco, era l'anno di Johnson. Il 3 novembre si vota negli Stati Uniti, è sicuramente l'anno, quantomeno i mesi per Donald Trump, e quindi sarà proprio lui ad accompagnarci in questi primi viaggi. Detto ciò, Roberta Frisani, il nostro termometro, o meglio i dossier internazionali. I nostri dossier internazionali sono tutti quei fatti e quelle notizie che campeggiano qui sulle scrivanie di Nessun Luogo Lontano nella nostra redazione, fatti e notizie che diventeranno approfondimenti nelle prossime puntate o temi che da tempo già tocchiamo. E con questo torniamo indietro di qualche tempo prima della pausa estiva, il braccio di ferro tra India e Cina, perché si stanno intensificando le tensioni proprio in quel confine così caldo. La cosiddetta linea effettiva di controllo, che è una frontiera che non è mai stata completamente definita e si snoda, pensate, attraverso 4.000 km in zone assolutamente impervie, siamo nell'Himalaya orientale. Il 15 giugno scorso, come avevamo raccontato proprio da questi microfoni, era venuta quella che dal punto di vista storico è stata una delle pagine più buie dei rapporti tra Cina e India, perché l'esercito indiano e quello cinese si sono scontrati in una schermaglia davvero sanguinosa e hanno costituito un benefico record dai tempi del 1962, che non si registrava un bilancio così sanguinoso, perché gli scontri sono costati la vita a un numero che va tra i 20 e i 40 soldati. Più trasparente il bilancio indiano, un po' meno come al solito quello cinese. Dettaglio che poi non è un dettaglio, forse raccapricciante e tragico: quegli scontri sono avvenuti a mani nude, con mazze ferrate, con bastoni, in buona sostanza appunto una guerriglia vera e propria. E dopo mesi di attriti, di varie mosse contrapposte, con l'India che accusava la Cina di continuare ad avanzare con le sue postazioni, la situazione situazione sta nuovamente peggiorando. Infatti Delhi ieri continua a denunciare nuovi spostamenti di truppe alla frontiera, e secondo Delhi sarebbe stato respinto per la terza volta un tentativo cinese di sconfinamento, pensate, in 3 giorni. Dall'altra parte Pechino ovviamente invece accusa l'India di violazione del confine cinese. Secondo le fonti indiane, negli scontri di sabato notte sarebbe rimasto ucciso un soldato indiano di etnia tibetana, anche se ieri da poco si è pronunciato il ministro degli esteri di Pechino, Hua Chunying, che ha detto la responsabilità è tutta dell'India. Torneremo sicuramente a parlare di questo tema, perché quel confine così lontano e così alto proprio a livello di quota è caldo, caldissimo, e gli interessi delle due superpotenze continuano a confliggere. Bielorussia poi, che è un altro dossier caldissimo, perché non si arrestano le proteste, le repressioni nel paese. Ieri a Minsk la polizia ha arrestato 95 persone, era l'ennesima manifestazione contro il presidente Aleksandr Lukashenko, da molti bollato come l'ultimo dittatore d'Europa. Il Ministero dell'Interno ha riportato che tra i fermati ci sono oltre 30 studenti. Gli arresti in tutto il paese arrivano a quota 128, e si è fatto sentire il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che sostiene che dal territorio di Minsk si provochino e si finanzino azioni radicali durante le manifestazioni antigovernative. Lavrov ha dichiarato: secondo le nostre stime, circa 200 estremisti che sarebbero stati addestrati e formati in territorio ucraino sono attualmente nella Repubblica Bielorussa, e di questo sicuramente torneremo a parlare. A proposito di Russia, è una breaking news che la BBC ha battuto pochi secondi fa, che riporta la voce e il commento del portavoce del governo tedesco Stefan Seibert, secondo il quale l'attivista oppositore russo Alexei Navalny è stato avvelenato con il Novichok, lo stesso agente chimico impiegato nel tentato omicidio dell'ex agente segreto russo Sergei Skripal, della figlia Yulia, che furono avvelenati a Salisbury in Inghilterra nel marzo del 2018. La parola Novichok indica una classe di veleni sviluppati in Unione Sovietica tra il 1970 e il 93, sarebbero tra i più letali agenti nervini mai realizzati. Il governo tedesco ha acquisito prove che non lasciano dubbi, così ha detto Stefan Seibert, e non c'è dubbio che queste dichiarazioni così perentorie, che arrivano da una voce ufficiale del governo tedesco, sicuramente causeranno reazioni internazionali, ma staremo a vedere la Russia che cosa risponderà in proposito. E poi Stati Uniti d'America. Ieri il presidente Trump si è recato a Kenosha nel Wisconsin, lo ricorderete, teatro di durissime proteste dal 23 agosto scorso, dopo che la polizia sparò 7 colpi di pistola alla schiena dell'afroamericano Jacob Blake durante un fermo. Il video ha fatto il giro del mondo, un video particolarmente drammatico. Durante la sua visita Trump ha parlato e ha detto: terrorismo interno sono le violenze scoppiate durante le manifestazioni, non esiste razzismo sistemico all'interno delle forze dell'ordine statunitensi, ma invece vi sarebbero soltanto alcune mele marce. Funzionari locali, lo ricorderete, lo abbiamo ribadito anche da questi microfoni, tra cui il sindaco della città ma anche il governatore del Wisconsin, avevano chiesto a Trump proprio di evitare il viaggio a Kenosha per paura di nuovi scontri, ma il Wisconsin rimane uno stato chiave per le elezioni di novembre e Trump, lo ricordiamo, vinse proprio qui nel 2016. Durante l'incontro con le forze dell'ordine locali, non con i familiari di Blake né con la vittima, Trump ha accusato i democratici di consentire la violenza nelle strade americane, e sostenendo invece di essere rappresentante della legge dell'ordine e vero baluardo contro i saccheggi e le rivolte che stanno minacciando le città statunitensi. Da parte sua, Joe Biden, che sembra sempre un po' rincorrere l'agenda del presidente Trump, sta prendendo in considerazione una visita a Kenosha. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti e notizie che arrivano dai 4 angoli del globo, che saranno oggetto di approfondimento qui a Nessun Luogo è Lontano. Adesso però andiamo in Libia. A Andiamo in Libia per darvi conto di quella che è stata l'importante visita diplomatica del ministro Luigi Di Maio, il sottosegretario Mallo Di Stefano. Ieri abbiamo provato a raccontare un po' di retroscena anche con le voci libiche. Adesso invece possiamo, con la voce di uno dei diretti interessati, il sottosegretario degli esteri Mallo Di Stefano, provare a fare maggiore chiarezza. Sottosegretario, buongiorno, ben ritrovato qui a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, grazie per l'invito, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie a lei per il tempo che ci dedica. Gioco forza, una prima domanda va purtroppo per l'ultimo fatto di cronaca che vede quattro, in realtà due, adesso due pescherecci sono riusciti a fuggire. Due pescherecci, 18 marinai italiani nelle mani di una guardia costiera che è parte dell'altra Libia, diciamo così. Sì. Ha notizie fresche, sottosegretario, da poter diffondere dai nostri microfoni? Non ho notizie fresche perché lo sto seguendo direttamente l'unità di Tripoli. Non a tranquillizzare, ma a chiarire, vorrei aggiungere che purtroppo è un problema che avviene spesso, che seguiamo spesso con la controparte, diciamo, del distretto della pesca siciliana, perché purtroppo la questione della pesca in acque tra la Sicilia e la Libia ha portato più volte in passato a sequestri di pescherecci. Fortunatamente possiamo dire nel 99% dei casi finisce bene, quindi con la restituzione del mezzo oltre che la liberazione dell'equipaggio, e quindi crediamo che con buona possibilità anche oggi sarà la stessa cosa. E naturalmente ci saranno novità sicuramente a breve. Certo, accogliamo questa fiducia e ci uniamo insomma nella speranza che tutto vada per il meglio. Naturalmente però, come ha sottolineato il sindaco di Mazara del Vallo, non sfugge il fatto che il tutto avviene sostanzialmente a poche ore dalla vostra dipartita da Tripoli, quasi come se, e qua evidentemente forse faccio un azzardo giornalistico, ma la Libia di Saleh e di Haftar volesse lanciare un segnale all'Italia, quell'Italia che è andata a dialogare con i nemici libici, con i fratelli con i quali non corre buon sangue. La trovo una lettura azzardata, sottosegretario? No, è azzardata per un semplice motivo. Noi in realtà ieri abbiamo fatto visita anche in Cirenaica a Salè, quindi abbiamo dialogato ieri, abbiamo voluto proprio dare un primo seguito operativo al comunicato congiunto che hanno emanato il presidente Sarraj e Salè, quindi il presidente del Parlamento libico. E un comunicato in cui tracciavano insieme un percorso di normalizzazione della Libia. Per questo motivo abbiamo fatto appunto una visita a entrambi per continuare su questo dossier, quindi non legherei le cose, anche perché, ripeto, la storia ci dice che sono sempre avvenute purtroppo il lato pescherecci, e quindi non sono, secondo me, assolutamente collegabili. Sì. La voce che state ascoltando è quella del sottosegretario agli esteri Mallo Di Stefano, fresco di visita diplomatica a Tripoli proprio ieri. Secondo le indiscrezioni di stampa, sottosegretario, lei dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di capo di questa nuova commissione bilaterale che promette di far partire nuovi investimenti tra Italia e Libia, e addirittura andare a riesumare quei famosi accordi che il governo Berlusconi fece allora, era il 2008, con Gheddafi, l'autostrada della pace, la ricostruzione dell'aeroporto, eccetera. Ecco, intanto ci conferma che sarà lei a guidare questa nuova commissione? La commissione la andiamo a costituire adesso, ovviamente anche la controparte libica parteciperà alla definizione dei componenti della commissione, ma comunque sì, l'incarico lo gestirò io, anche banalmente perché la commissione ha una valenza prettamente economica nel rapporto bilaterale, e la mia delega proprio in Palestina è per il commercio estero e l'internazionalizzazione delle imprese. Poi è un dossier molto importante che il Ministro segue direttamente, e abbiamo voluto riservare a questo dossier un pieno coinvolgimento di tutta la Farnesina, quindi sarà una commissione di grande, con un grande impegno, diciamo. Non possiamo ignorare tutti quanti che oggi la stabilità anche economica e anche infrastrutturale della Libia diventa determinante per poter pensare davvero a una ripartenza politica della stessa anche. Non c'è dubbio. E quindi per noi è fondamentale. E poi diciamoci le cose come stanno, gli accordi di Berlusconi del 2008 erano buoni accordi, per quello ripartiamo anche da lì, perché erano accordi che ovviamente puntavano a ricostruire alcuni progetti infrastrutturali, ma fatti da aziende italiane, quindi per noi va più che bene, chiaramente. Sì. Ecco, sottosegretario, avete avuto già, immagino di sì, una disponibilità da parte di un parterre di alcune aziende italiane pronte ad andare a lavorare in Libia una volta che l'accordo fosse confezionato come si deve? Sì, assolutamente sì, ovviamente le prime interessate sono le parti state pubbliche, perché i progetti dell'epoca erano per lo più afferenti a loro. Noi, la nostra idea invece è proprio quella di creare anche un nuovo momento per altre aziende del settore prettamente anche privato che possano trovare nuove opportunità in Libia. E questa è un po' la funzione anche della commissione mista che faremo, cioè individuare tutti gli ambiti di collaborazione che vadano anche al di là di quelli che definiti nell'accordo appunto del 2008. Sì. E un accordo che chiaramente proverà anche a espandersi con progetti di cooperazione di altro genere, e questo è molto importante per noi, perché la Libia nel racconto quotidiano viene sempre ormai identificata come quella dove ha vinto la Turchia, ma in realtà i libici vedono l'Italia per quello che è sempre stato, per il loro partner più importante. Quindi la risposta chiara è l'avvio imminente di questa commissione. Ecco, è possibile, sottosegretario, forse un po' prematuro, ma magari le chiedo di sfregare la sfera di cristallo, quantificare in qualche modo quello che potrebbe essere il ritorno economico italiano, cioè di che investimenti stiamo parlando, di quanti miliardi, quello all'epoca berlusconiano, diciamo, arrivava fino a 5 miliardi, per esempio? Da quelli sicuramente ripartiamo, quindi si parla di queste cifre. E quindi l'indotto di queste cifre potrebbe essere ben più alto, ovviamente, perché ad esempio se pensate al mondo dell'oil and gas, dal 2008 a oggi la Libia, grazie soprattutto a Eni, ha scoperto grandi dotazioni di materia prima, e quindi nuove possibilità di prospezioni, di posti e di nuove opportunità. Di conseguenza noi crediamo che questa prima operazione sia in realtà abilitante per tanti altri progetti ancora più importanti. Chiarissimo. Sottosegretario Di Stefano, la domanda forse è cruciale: se tutto andrà a compimento, naturalmente ce lo si augura a tutti come italiani, gli imprenditori all'ascolto, i lavoratori, però c'è il tema sicurezza. Ai nostri microfoni un attento analista ieri, Arturo Varvelli dell'European Council of Foreign Relations, diceva: il piano Berlusconi era un ottimo piano, ma era stato stipulato in un momento di pace e di stabilità. Come garantire sicurezza alle aziende italiane che andassero in territorio libico? Perché abbiamo avuto, ahi noi, anche episodi purtroppo tragici e funesti in una Libia così instabile. Il governo italiano è in grado e potrebbe, se sì, in che modo garantire la sicurezza degli italiani che vanno a lavorare in Libia? Considerate che le nostre aziende purtroppo sono abituate anche a quei contesti, perché abbiamo avuto progetti anche recenti, ad esempio in Iraq, in piena guerra, di conseguenza abbiamo la capacità di organizzare questo tipo di coordinamento. La Libia per fortuna oggi è sempre più un paese in pace rispetto anche già soltanto un anno fa, e ovviamente stiamo ripartendo con la commissione mista proprio ora, perché c'è stato questo anche movimento da parte di Saleh e Sarraj per andare verso appunto a un cessato il fuoco perdurante. È chiaro che se fossimo soltanto di 3 mesi indietro non sarebbe il tempo per fare la commissione mista. Sì. Diciamo che si stanno allineando i tasselli, grazie, devo dire, che se ne dica anche e soprattutto all'operato del ministro Di Maio, e questa situazione attuale ci permette di fare queste nuove riflessioni. Sì. Ma è chiaro che è tutto un divenire che dobbiamo monitorare di settimana in settimana. Speriamo che si possa arrivare a nuove elezioni politiche in Libia già entro marzo, e quindi avere di fatto una vera pacificazione del paese. Sì. La voce che state ascoltando è quella del sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano. Ieri si è recato con il ministro degli esteri Luigi Di Maio a Tripoli per cercare di rinverdire un goloso piano, quello di Berlusconi, stipulato nel 2008 con l'allora colonnello Muammar Gheddafi, che reggeva con pugno duro alla Libia, ma all'epoca era piuttosto stabile. Adesso quel piano viene ritirato fuori, un piano che pare aver ingolosito anche il governo di Tripoli. Se così fosse, la Turchia potrebbe soffrire di qualche mal di pancia. In queste settimane abbiamo raccontato di una contesa che è lì, è anche nemmeno troppo sotto traccia, sottosegretario, tra l'Italia e la Turchia, economica soprattutto, perché poi la Turchia ha messo i boots on the ground, come si dice in gergo, quindi un pochino più arrogante e muscolare, per così dire. Ecco, siamo davvero in guerra commerciale, economica, egemonica con la Turchia in territorio libico? No, non siamo in questo tipo di situazione. E anzi, si sta instaurando una sorta di collaborazione per cercare appunto di fare gli interessi del paese, soprattutto verso la sua stabilizzazione. E io non ho questa preoccupazione in questo momento. Chiaramente ognuno ha i suoi interessi, e questo è normale, specie in economia. L'ultima domanda arriva da un'ascoltatrice e va a ritornare sul tema degli eventuali riscatti pagati dal governo italiano. Lei sospetta, o è già avvenuto, che la milizia, quella sorta di guardia costiera di Bengasi che ha sequestrato i pescherecci, potrebbe chiedere soldi in cambio, e se sia notizia da questo punto di vista? Guardi, è molto difficile dirlo, perché intanto una delle operazioni, la prima operazione che fa la Farnesina in questi casi è ricostruire la catena di quello che è successo e quindi capire chi sono i riferimenti, perché a volte nella storia è stato anche un sequestro legittimo, perché a volte è successo ad esempio che il pescherezzo fosse in effetti in acque libiche, sì, e altre volte no, è stata una forzatura, quindi è impossibile dirlo senza sapere davvero cosa è successo, e la cosa è così fresca che ancora chiaramente bisogna capirlo. Le agenzie al momento dicono 35 miglia dalle coste libiche, ma ovviamente è tutto da verificare. L'ultima annotazione, le rubo gli ultimi due minuti, sottosegretario, sì, sì, Maglio Di Stefano, la questione dei migranti. In molti sostengono che quell'accordo da voi riesumato, quello di Berlusconi, ma in senso buono evidentemente, sì, sottosegretario, prevedesse anche un controllo maggiore da parte del governo libico, allora Muammar Gheddafi, sui flussi migratori, e anche nei vostri intenti, e se sì, si può mettere una parola definitiva sul maggiore rispetto dei diritti umani nei centri di detenzione in Libia, e se sì, se intendete anche controllarli? So che dovrebbe essere piuttosto l'ONU a svolgere questo tipo di controlli, ma visto che l'Italia è in prima linea nel tessere relazioni diplomatiche anche in maniera privilegiata, forse potrebbe anche occuparsi del rispetto dei diritti umani. Lei cosa ne pensa? Allora, noi abbiamo già detto più volte che negli accordi, anche con le agenzie di controllo libiche, abbiamo più volte ribadito l'intenzione e la volontà che il rispetto dei diritti fosse pieno. Ci mancherebbe altro, perché siamo l'Italia. Lei ha detto bene, però l'Italia non può controllare direttamente i centri di accoglienza in Libia, lo deve fare l'ONU, e diciamo però anche le cose come stanno. Siamo lontani ancora da una stabilità sul territorio libico in grado di potersi permettere questo tipo di controllo. Allora torno indietro proprio per questo. Sì. La spinta che stiamo dando a una stabilizzazione anche economica e infrastrutturale del paese serve proprio a creare anche le condizioni per una migliore gestione dei flussi migratori, migliore in termini di diritti umani e in termini anche di controllo. Perché è chiaro che è un paese che non ha sostanzialmente neanche un esercito coeso, perché in questo momento la Libia ha più milizie, non ha un vero e proprio esercito, e ha anche più difficoltà a gestire i flussi. E quindi è tutto un circolo vizioso che deve diventare virtuoso. E vedremo se questo accordo, i primi 5 miliardi, sottosegretario Maria Di Stefano ribadiva, quella è la base di partenza, potrebbero diventare... miliardi di dollari, potrebbero diventare una formidabile molla per garantire alla Libia quella stabilità che fino adesso, dal 2011, non ha visto. Grazie mille, sottosegretario Maglio Di Stefano, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie. 349-238-6666 invece il numero da digitare per SMS e WhatsApp. Sam, chi è il matto che ora come ora andrebbe con la sua azienda in Libia? Soprattutto gli operai. Il sottosegretario Maglio Di Stefano ribadiva l'expertise di alcune aziende italiane, ma è anche dubbio, e lo ribadivo nella mia domanda, che vi sono stati anche casi funesti e tragici che messo nero su bianco come a volte alcune aziende italiane non fossero accompagnate in tutta sicurezza in un territorio, per carità, di una difficoltà incredibile. Nel frattempo c'è qualcuno che scrive: i libici si accorgono dei pescherecci ma non si accorgono dei barconi di immigrati. Però attenzione, non facciamo confusione, perché la maggior parte delle partenze libiche avvengono dalla zona di Tripoli, Zuara, Zawiya e tutti quei porti lì. Qua stiamo parlando di Bengasi, quindi siamo dall'altra parte della Libia. Cerchiamo come al solito di fare più precisione possibile per meglio comprendere la complessità del fenomeno. Così come complessa è la questione Navalny. Antonio Tele mi sta aggiornando via monitor, ve ne darò conto tra pochissimo, non prima di aver sentito come stanno andando le borse. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, la vostra dose quotidiana di esteri, di notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, anche se la prima pagina è colma di notizie in parte non assolutamente buone, perché il sequestro di due pescherecci e 18 marinai nelle mani del guardacoste libico di Bengasi, il governo, quello di Tobruk, sicuramente non è una buona notizia. Dall'altra parte però abbiamo continuato a parlare di Libia con Mario Di Stefano, che sostanzialmente propone una tesi che, attenzione, io, è una mia modestissima opinione, condivido per buona parte, nel senso che la stabilizzazione economica in un paese disastrato come adesso può essere la Libia, magari aggiungerei io con un ottimo addestramento da parte delle forze armate, un innalzamento magari degli stipendi per fare in modo che queste milizie non possano essere comprate tra virgolette in maniera molto facile dai signori di guerra di turno, ecco, una stabilizzazione economica e grandi opere infrastrutturali possono essere certamente una base per un dialogo e anche altamente auspicabile per andare a regolarizzare la questione immigrazione. Per regolarizzare intendo vi siano finalmente il rispetto totale e pieno dei diritti umani in quei centri che ancora qualcuno, qualche politico, qualche giornalista continua a chiamare centri di accoglienza. Non lo sono, sono centri di detenzione, il tutto avviene a pochi chilometri dalle coste italiane e il tutto avviene molto spesso con un occhio chiuso da parte chi invece dovrebbe vigilare e monitorare anche su questi fenomeni. Abbiamo raccontato brevemente di quell'accordo che Silvio Berlusconi fece con Muammar Gheddafi, era il 2008, mancavano tre anni, Gheddafi non lo sapeva ancora cosa sarebbe accaduto a lui e alla sua Libia, ma quell'accordo fu un caposaldo anche per andare a riparare i danni di guerra, un tuffo nella storia, ve lo raccontiamo in 90 secondi. Il passato coloniale e il burrascoso rapporto con Gheddafi caratterizzarono la firma nel 2008 del Trattato di Bengasi tra il governo Berlusconi e la Libia del colonnello. Un accordo motivato dall'esigenza di ricucire una volta per tutte la tormentata relazione tra le due sponde del Mediterraneo. Il trattato prevedeva diversi oneri per Roma, come la costruzione di 200 unità abitative, cure mediche e borse di studio per cittadini libici e la restituzione di reperti archeologici. Inoltre, in cambio della cooperazione in ambito energetico e al controllo dei flussi migratori, l'Italia si impegnava a versare all'ex colonia 5 miliardi di dollari in 20 anni per la realizzazione di infrastrutture. La Libia, da parte sua, si impegnava a garantire gli appalti edilizi alle aziende italiane. Tra i punti chiave dell'accordo figurava la costruzione della cosiddetta autostrada costiera della pace e dell'aeroporto internazionale di Tripoli. L'autostrada, considerata la più imponente e impegnativa infrastruttura mai realizzata da aziende italiane, prevedeva 203 ponti, 1470 tunnel e 30 uscite. Lunga più di 1700 km, avrebbe dovuto collegare Ras Ajdir a Im Saad, attraversando l'intero paese, dalla frontiera con la Tunisia fino al confine con l'Egitto. Valore complessivo oltre 3 miliardi di euro. La commissione italo-libica che il ministro degli affari esteri Di Maio vuole ricostruire dovrebbe occuparsi della ripresa di questi due grandi progetti, bloccati dalla primavera araba del 2011. La Libia è il secondo partner africano di Roma, mentre l'Italia rimane il quinto fornitore per Tripoli, con un aumento del 32% delle esportazioni nel 2020. La fragile tregua dell'ultimo mese riuscirà a garantire l'attuazione degli accordi? E naturalmente a questa domanda potremmo avere una risposta solamente attendendo e aspettando che questo piano si concretizzi, che la Commissione inizi a lavorare, che la Libia continui a rispettare questa fragile tregua e che permetta una ricostruzione a tutti gli effetti. Un ascoltatore o ascoltatrice, la tua soluzione quale sarebbe? Andarli a prendere con le navi? Questo credo che faccia riferimento alla questione migranti, ma a una domanda come questa non so rispondere. Il mio accalorato proclama, se volete, era semplicemente che un vicino con il quale andiamo a tessere profonde relazioni economiche, con cui c'è un passato in comune, a volte tormentato, impone sicuramente anche un aspetto etico e di rispetto del diritto internazionale e quindi anche andare a risolvere una volta per tutte la questione migranti, che in Libia è semplicemente un tassello, perché adesso la maggior parte delle partenze e degli arrivi provengono dalla Tunisia, una strana serie di corsi e ricorsi, le rotte si aprono e si chiudono e si riaprono a seconda dei comportamenti dell'Europa e delle politiche estere dei vari paesi. Detto ciò, adesso vi propongo di sentire una voce libica, anche quest'oggi, Abdulrahman Seweli, politico, ex presidente dell'Alto Consiglio di Stato, l'ho raggiunto, la nostra Giulia Cannizzaro, e ai suoi microfoni dice una cosa interessantissima. La prima ha a che fare con una domanda: quanto fruttuosa è stata la visita di ieri della delegazione italiana? Ascoltate insieme a me con attenzione che cosa dice. Your foreign minister visited the latest of several over the last few months. La visita del vostro ministro degli esteri è l'ultima di una serie di visite nei mesi scorsi. Non sono stati pubblicati i dettagli in merito allo specifico argomento di discussione. Io credo che l'accordo tra i nostri paesi vada rivisto e approfondito per capire se ci sia un miglioramento da fare, considerando i recenti cambiamenti in Libia. In generale, l'Italia ha bisogno di sviluppare e adottare una politica che sia chiara e consistente. Credo che non sia nell'interesse dell'Italia avere una politica che cambi ad hoc di giorno in giorno. L'Italia ha perso una sostanziosa quantità di fiducia da parte di molti libici per non aver assunto una posizione ferma contro l'offensiva su Tripoli, lanciata l'anno scorso dal signore della guerra Haftar, e ora rischia di perderne ancora di più facendosi coinvolgere nel comportamento conflittuale operato dalla Francia nel Mediterraneo attorno alla Libia. Le nostre due nazioni hanno un grande potenziale per relazioni economiche prosperose che portano benefici a entrambe le parti. Ma io consiglierei al vostro governo di ascoltare di più i vostri agenti sul campo in Libia, poiché sono sicuro che hanno delle opinioni valide riguardo a ciò che andrebbe fatto da parte dell'Italia per proteggere quello che è rimasto della benevolenza che il nostro popolo prova nei confronti della vostra nazione. Ed è molto interessante l'argomento che introduce Abdulrahman Sewaili, politico, ex presidente dell'Alto Consiglio di Stati, è una figura politica preminente di lungo corso che ancora dice la sua all'interno della politica tripolina. Parla sostanzialmente di capitale umano politico sentimentale, se mi lasciate correre questa espressione, che è parte anche della politica e delle relazioni tra due paesi. Però proprio ieri da questi microfoni, dai nostri osservatori sul campo, dalla Libia veniva fuori che cosa? Beh, che sostanzialmente il Parlamento di Tripoli è molto molto filoturco e quindi sicuramente c'è un gap che in qualche modo l'Italia dovrà tentare di recuperare per riposizionarsi, in geopoliticamente parlando, in una posizione preminente. Continuiamo a ascoltare la voce di Abdulrahman Sewaili, politico libico, ex presidente dell'Alto Consiglio di Stato, e torniamo su quell'evento, l'abbiamo raccontato ieri, la sospensione di Bashagha, ex oramai potentissimo ministro dell'Interno, le nostre delegazioni l'hanno spesso incontrato, è stato rimosso, sospeso per inadeguatezza. Rumors parlavano addirittura, pensate, di un tentativo di colpo di Stato ai danni di Sarraj da parte di Bashagha e delle sue milizie, lui misuratino, che nel 2016 si è fatto sentire come nella lotta contro lo Stato Islamico, lui un ex pilota da guerra, insomma è militare e politico di lungo corso. Ecco, che cosa c'è di vero in queste indiscrezioni, in questi rumors? È in corso un braccio di ferro a Tripoli? Perché attenzione, se così fosse, la missione italiana di andare a stabilizzare, di andare a rifare economia, industria, eccetera, potrebbe essere molto molto più difficile. Sentite che cosa dice Abdulrahman Sewaili. Come sempre accade nel caso di una rivalità tra un primo ministro e uno dei suoi ministri che ha cercato di rimpiazzarlo. Comunque, nel caso di Sarraj e Bashagha, si è arrivati a uno scontro aperto quando Bashagha ha cercato di soppiantare Sarraj, accusando apertamente il governo di aver usato la forza contro i manifestanti, minacciando di usare la forza contro quelle parti e cercando di proporsi come il campione della lotta alla corruzione nel governo. Ovviamente la mano di Sarraj è stata forzata e non ha avuto alternative, se non quella di sospendere Bashagha. Questa è la voce di Abdulrahman Sewaili, intanto la vostra arriva sotto forma di messaggio SMS WhatsApp al 349-238-6666, c'è qualcuno che stigmatizza e irride anche al ruolo del ministro degli esteri Luigi Di Maio, qualcuno scrive Musumeci, punto esclamativo, durante la visita di Luigi Di Maio i libici hanno sequestrato due pescherecci italiani, si vede che Luigi Di Maio tiene tanto carisma e potere politico, ridateci Massimo D'Alema, vabbè, ma queste sono considerazioni che credo che non abbiano a che fare con chi siede in questo momento alla Farnesina, nel senso che dovete anche immaginare un lavoro lunghissimo e molto molto approfondito da parte dei, lo citava Abdurrahman Seweli, gli uomini dei servizi sul campo, tutto l'entourage della Farnesina. Queste visite non sono visite improvvisate, non c'è soltanto il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il sottosegretario Mallo Di Stefano, ci sono tanti italiani, ve lo assicuro, che ben conoscono il teatro libico e come. E chi conosce molto bene il teatro libico, questo per dire che anch'io sfumerei un po' questa, come dire, reazione da parte di Bengasi: ah, ma come, Di Maio va a Tripoli, aspetta che prendiamo due pescherecci italiani. Ecco, stiamo attenti a fare questa equazione. Ho provato a sussurrarla con Mallo Di Stefano, lui era piuttosto riluttante. Chi sta sul terreno conosce molto bene il ruolo dei fratelli musulmani. I fratelli musulmani, che in molti paesi del mondo arabo sono diventati fuorilegge, prima su tutti l'Egitto evidentemente, sono stati il motivo scatenante per cui il generale Haftar ha detto: io marcio su Tripoli perché voglio liberare la Libia dall'Islam estremista. Ma sembra che tutto dipenda da loro. È davvero così? Sentite cosa dice Abdurrahman Seweli, che è presidente dell'Alto Consiglio di Stato, da Tripoli, raggiunto da Giulia Cannizzaro poche ore fa, era stanotte. Questo è il problema con i fratelli musulmani, che sta costando a noi libici un notevole tributo. La falsa narrazione di Haftar e dei suoi principali sostenitori, l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti, è riuscita a ritrarre, a far sembrare la Libia occidentale come una roccaforte musulmana della Fratellanza Musulmana, e a usare questo motivo come uno dei suoi cavalli di battaglia nell'aggressione a Tripoli. Respingo totalmente questa affermazione. Sì, hanno una certa influenza, soprattutto attraverso i loro media, che hanno un forte sostegno finanziario da fonti sconosciute. E sì, sono riusciti a recuperare la dirigenza intermedia del governo negli ultimi 3 anni. Ma non ci sono prove a sostegno delle affermazioni dei vostri esperti, oltre a ciò che i fratelli musulmani stanno fingendo per assicurarsi un posto al tavolo dei negoziati nella futura negoziazione politica libica. E solo per la cronaca, i fratelli musulmani hanno ottenuto solo l'8% dei voti popolari nelle nostre ultime elezioni del 2012. E non ci si aspetta nulla di simile a questo riguardo alle prossime elezioni. Prossime elezioni, che è uno degli obiettivi di questo piano, in parte redatto ieri durante la visita di Luigi Di Maio e Mallo Di Stefano: stabilizzazione economica, nuovi investimenti in vista di nuove elezioni. Questo, devo francamente aggiungere, mi sembra un pochino prematuro, ma naturalmente quello è l'auspicio che si fanno tutti in nome della pace e della stabilità della Libia. La voce era quella di Abdurrahman Seweli, ex presidente dell'Alto Consiglio di Stato da Tripoli. Piccola pausa, la viabilità, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano e andremo a... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ancora una volta, ascoltatrici e ascoltatori, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano tra Libia e Parigi, ma con un occhio in Germania e anche a Mosca, perché dopo le fortissime affermazioni da parte del governo tedesco, in particolare dal portavoce di Angela Merkel, Stefan Seibert, che sta aggiungendo, ha detto: attenzione, abbiamo tutti i motivi per credere che sia stato avvelenato Alexei Navalny, grande oppositore di Vladimir Putin. Sto leggendo le nuove agenzie, mi sta informando in diretta Antonio Tali. Il governo tedesco condanna questo attacco nel modo più severo, così appunto Stefan Seibert in una nota a proposito dell'avvelenamento di Alexei Navalny. 7 ministri del gabinetto Merkel, si legge ancora, si sono incontrati oggi per deliberare sui prossimi passi da fare, e c'è da scommetterci che vi sarà una reazione diplomatica. Voi sapete che dopo un lungo braccio di ferro Navalny è stato ricoverato in un ospedale tedesco per le cure del caso. Da parte sua Mosca scrive: il Cremlino sostiene di non essere a conoscenza delle conclusioni delle autorità tedesche, secondo cui l'oppositore russo Alexei Navalny è stato avvelenato con una neurotossina del tipo Novichok. A parlare è stato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, che è stato ripreso dalla TASS. No, tale notizia non è stata portata alla nostra attenzione, ha affermato Peskov, che è un modo francamente anche un po' bizzarro, no, di negare un fatto, una notizia, una dichiarazione. Tale notizia non è stata portata alla nostra attenzione. Beh, insomma, anche qui il linguaggio forse soffre di una certa opacità, con buona pace di un'ascoltatrice Galina, che adesso mi sta scrivendo e dice: no, se fosse stato davvero il veleno di cui parlate, avrebbero dovuto indossare tute protettive, distruggere l'aereo che trasportava Navalny in Germania. Non ho le competenze batteriologiche, virologiche, abbiate pazienza, per eventualmente contestare o corroborare la tesi che ci propone questa ascoltatrice. 16:50, 57 secondi, adesso con Roberta Frisani andiamo a Parigi. Hanno preso i Kalashnikov, hanno gridato Allah è con noi, poi si sono allontanati col veicolo. La Francia oggi è scioccata davanti all'attentato a opera di questi terroristi. Terroristi, ça ne fait pas de doute. E così Valentina Ternullo e Roberta Frisani hanno raccontato, ci hanno fatto tornare indietro nel tempo, era il gennaio del 2015, l'attacco alla redazione di Charlie Hebdo, poi Montrouge, il supermercato Hypercacher, gli imputati quest'oggi alla sbarra sono 14, 13 uomini e una donna. L'accusa in realtà non è di quelle più pesanti, perché gli autori materiali di quella carneficina, i fratelli Said, Sherif Kouachi e Mehdi Koulibaly, poi morirono durante la reazione da parte della polizia, delle forze di sicurezza, delle teste di cuoio di quel giorno e poi nei giorni a seguire. Dicevo, gli imputati sono tutti accusati di aver fornito armi e appoggio logistico ai terroristi. Questo processo, che si apre oggi, durerà parecchie settimane, sta scuotendo ancora una volta l'opinione pubblica francese. Ma c'è un'altra notizia di cui voglio parlarvi oggi, e a latere una domanda che in redazione ci poniamo in realtà proprio da ieri sera, da quando abbiamo pensato a come raccontare la giornata di quest'oggi. Charlie Hebdo ha ripubblicato quelle vignette che causarono tanto odio da parte degli estremisti islamici, dicendo: noi non rinunciamo alla nostra libertà di espressione. Ecco, la domanda che ci poniamo è: fino a dove può arrivare la libertà di espressione, e se un alfiere della libertà di espressione si immola e sacrifica la sua vita, i 12 giornalisti che sono morti, quanto è giusto, corretto continuare nell'alveo di quelle provocazioni che sono sì in ultima istanza massima espressione della libertà, ma che forse in alcuni momenti storici possono anche causare delle ferite gravissime, dei lutti anche a intere cittadinanze. Credo che sia una questione senza una risposta facile, ed è per questo che magari vi affido anche a voi nei pochi minuti restanti. Ma voglio mettere sul piatto un altro tema che è molto molto importante, perché lunedì scorso il ministro degli esteri francese Darmanin ha dichiarato che i sorvegliati per sospette attività terroristiche in Francia sono oltre 8.000. Allo stesso tempo il procuratore nazionale antiterrorismo Jean-François Ricard ha detto che dall'inizio dell'anno i servizi segreti francesi hanno sventato almeno 6 attentati. Aumentano i radicalizzati, oppure è cambiato qualcosa nei metodi antiterrorismo proprio a partire da quelle stragi di Charlie Hebdo e del Bataclan? Anne Giudicelli è una studiosa, una ricercatrice molto molto attenta su tutte le dinamiche del terrorismo in territorio francese, e sentite che cosa risponde. No, en fait, les critères d'évaluation, ils ont évolué du point de vue des services de renseignement depuis ces quelques années, parce que précisément le visage et les modes opératoires de la menace terroriste ont évolué. Donc souvent d'ailleurs les critères de surveillance sont mis en place. E come sentite, dice, i criteri di valutazione sono evoluti da qualche tempo, questo perché i metodi della minaccia terroristica sono evoluti. Anne Giudicelli ha detto che, avendo istituito dei nuovi criteri di sorveglianza, sostanzialmente appena viene identificata una nuova forma di terrorismo, un nuovo metodo operativo, i parametri vanno a cambiare istantaneamente. Non solo parametri di sorveglianza, ma anche per il profiling dei sospetti, cioè quegli identikit psicologici che vengono evoluti, aggiornati su tratti sempre più specifici. E dice che questi parametri sono sempre più complessi, sono sempre più complicati, quindi sostanzialmente si sa osservare meglio il fenomeno e si individuano più persone potenzialmente pericolose, e da ciò deriverebbe appunto l'allarme. E donc d'augmenter potentialmente le chiffre des gens surveillés. Allora, un po' di commenti intanto e di messaggi, così alterniamo la voce di una analista che ben conosce tutti i movimenti terroristici in Francia e non solo, l'abbiamo intervistata più volte, lei è la teorizzatrice della intelligence di prossimità, cioè del fatto che ogni quartiere possa essere coinvolto nell'andare a monitorare, tra virgolette, i vicini, i potenziali terroristi, i comportamenti sospetti. Per noi amanti della libertà, scrive un ascoltatore, lei non si può mettere sulla bilancia, lei è scritto maiuscolo, è così, se lei la ami sei monogamo, credo che faccia riferimento evidentemente alla libertà. Qualcuno scrive invece, io credo che la libertà di espressione finisca nel momento in cui va a ledere il rispetto di un'altra persona. È anche vero che Charlie Hebdo si è distinto, macchiato secondo alcuni, di un'irriverenza profonda verso tutte le confessioni religiose, verso l'Italia stessa, ricorderete delle vignette francamente molto spesso discutibili. Io credo che ancora una volta si parla di comunicazione, di satira, valga anche il, credo, il buon gusto, lo scrivere, anche la battuta può essere molto molto feroce ma scritta in punta di penna. Ecco, quando quell'impugnatura, quella penna non è grossolana ma è raffinata, è sublime, ecco, possa creare sì un po' di fegato amaro, però poi il sorriso compare sul volto di chi osserva quella vignetta. Io, personalissima opinione, per carità, ho trovato a volte il gusto totalmente assente, quindi quella satira quasi evaporare, ecco, in nome di questa libertà. Poi le scelte dei giornalisti di Charlie Hebdo, coraggiosissime, naturalmente è a far loro. Torniamo a Anne Giudicelli, ex funzionario del Ministero degli Esteri francese, ha fondato una sua società di sicurezza, la Terrorisk, appunto. Facciamo sentire la sua risposta a una seconda domanda. Ricard parla della minaccia, il procuratore nazionale antiterrorismo, Ricard parla anche della minaccia mai completamente soffita dei foreign fighters di ritorno da Iraq e Siria, ne abbiamo parlato tantissime volte. Quali sono le reti più pericolose in Francia? Sentite. En fait, il y a l'un va avec l'autre, si vous voulez. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui ont une vraie. Un fenomeno regge l'altro, dice. Oggi coloro che hanno maturato una vera e propria esperienza in un'organizzazione terroristica sui fronti di guerra generano per forza di cose fenomeni di emulazione, ispirano coloro che non hanno combattuto ma si riconoscono in quell'ideologia jihadista e nei valori che vengono importati dai cosiddetti foreign fighters. Ora in realtà sintetizzo qui, con l'epidemia da Covid-19 i trasferimenti dei soggetti reclutati sui fronti di guerra in altre nazioni non sono più possibili, almeno per il momento, e questo da questo punto di vista è una buona notizia. Quindi, conclude Anne Giudicelli, possiamo dire che queste organizzazioni terroristiche sono in fase di mobilitazione, soprattutto nelle basi logistiche presenti nei paesi europei, nonostante evidentemente il progetto originale sia quello di diffondersi all'estero. Questa Anne Giudicelli, questa è la nostra ultima pagina di questa puntata di Nessun Luogo Lontano e questi sono i nuovi titoli di coda. You're fired. You're fired. You're fired. Eh sì, perché il personaggio dell'anno è Donald Trump e ci accompagnerà fino al 3 novembre. Grazie mille a tutti voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra. Un saluto da Giampaolo Musumeci.